quali prospettive hai? Cosa ne fai del tuo tempo? Il fuoco che era spento lo accendi dentro. Aspetti il rendimento del tuo investimento e lotti contro il mondo, ma è forza che vai perdendo. Cosa ne pensi dell'amore? Tutto un dare avere, o forze troppo grandi per poterle contenere? E io so solo che chi ci appaga rimane scolpito come il sorriso di un bambino, quindi pulito. Ma adesso siediti qui al mio fianco, fidati di me perché ti aspetto da tanto. E che per quanto sei sirena in questo letamaio, ci sono solo lenze promesse da marinaio che giurano sul mare ma stanno all'asciutto. Vieni tra le mie braccia e stai tranquilla, penso io a tutto. Il sogno è il rimedio più adatto, ci siamo solo io e te e nessun altro. Adesso vieni accanto a me, stringimi perché voglio che ti fidi di me. Io voglio solo proteggerti, io voglio solo proteggerti. E quindi parlami di te, non dare forfè. Guardami e dimmi che c'è. Ormai non serve nascondersi, ormai non serve nascondersi. Il fatto è che fa troppo caldo, spingo più in alto pur di rimanere intatto. Baby, se vuoi ti stringo e dopo parto, perché preferisco un graffio dentro che essere salto con te. Shh, non dire niente, che a volte ti sono più vicino se sono assente. E cosa senti dentro te? Dimmelo adesso. Il sogno non è il bello ma il vero del resto. Non sei d'accordo? Dimmi da cosa vuoi scappare, che desiderare di farsi male non è poi così stolto a volte. Almeno non è come volere pulire storie troppo sporche. È caffeina, è retrogusto amaro. Chi cerca la dolcezza paga un prezzo troppo caro. Ma non serve niente nascondersi, adesso è folle nascondersi. Allora vieni accanto a me, stringimi perché sai che puoi fidarti di me. Io voglio solo proteggerti, io voglio solo proteggerti. Allora parlami di te, metti da parte sé, quando sei sicura di te. Sai che non serve nascondersi, ormai non serve nascondersi. Io voglio solo proteggerti. Allora parlami di te, metti da parte sé, quando sei sicura di te. Sai che non serve nascondersi, ormai non serve nascondersi.